Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Come molti di voi già sapranno, come poco fa ho scritto in tutti i miei social network, questa è l'ultima puntata che va in onda alle 10 di Melog. Lascerò lo spazio a Giovanni Minoli con un suo nuovo programma. Cosa faremo invece? Noi ci ritroveremo a mezzogiorno e mezzo tutti i giorni. Lo dico adesso perché è l'ultima occasione che ho di parlare direttamente e in una fascia oraria in cui un pubblico mi ha seguito con grande fedeltà, grande attenzione e a volte anche grande reazione negli ultimi anni. Ma per me è usuale, è interessante, anzi è salvifico ogni tot anni cambiare fascia oraria, andare a cercare nuove praterie e nuovi terreni. E però per me è importante, è necessario che questa mia transumanza sia seguita dalle persone che da una trentina d'anni circa mi sentono alla radio. Perché sono molto euforico di andare a fare il programma a mezzogiorno e mezzo? Perché? Perché guardando e analizzando il pubblico mi sono accorto che in quell'orario Radio 24 ha un primato su tutto l'ascolto radiofonico. C'è il maggior numero di donne in percentuale che ascoltano la radio. E da lì proprio voglio ricominciare. Perché? Perché ho sempre considerato il punto di vista femminile la più potente, interessante e originale mediazione rispetto alla realtà. Mi sono sempre fortemente e visceralmente appassionato al punto di vista delle donne. E soprattutto in un momento molto particolare in cui la più cruenta, la più crudele, la più vigliacca contrapposizione e conflitto di civiltà si sta attuando proprio sul corpo delle donne. Non tanto sull'idea di donna, sul concetto di donna, sull'emancipazione della donna, sulla libertà della donna, sul corpo delle donne. Perché? Perché in un momento di estrema decadenza, per il mondo occidentale in particolare, ma di estrema e virulenta anima rozza e volgare del mondo che guarda l'Occidente come un nemico, il corpo della donna sembra diventato il grande pretesto su cui gli uomini si accapigliano. Gli uomini hanno un terrore fottuto del corpo delle donne. Gli uomini in epoche migliori probabilmente avevano un maggiore possibilità di rapportarsi e di trovare punti di intesa sul corpo delle donne, che è il loro vero terreno di scontro, è il vero cimento per un uomo, il corpo delle donne. Il corpo delle donne è talmente importante, tanto che c'è un mito antichissimo che spesso ho citato, in cui le mogli dei pescatori, quando avevano i loro uomini in alto mare per la pesca e vedevano il mare arrabbiato, intuivano la tempesta che potesse essere per loro nociva, si mettevano sul liminare della spiaggia, alzavano le gonne e mostravano la loro nuda natura alla procella, alla tempesta. Era talmente forte il potere del loro corpo, tanto da calmare la furia del mare. E gli uomini, temendo questo corpo, oggi hanno inscenato in diverse latitudini una guerra terribile al corpo delle donne. Da una parte le chiudono, le sigillano, le coprono, le nascondono, ne parlammo già venerdì. D'altra parte, dietro la apparente libertà di poter esporre a piacere i loro corpi, costringono a loro un ancora più cruento e pericoloso burka, che è la chirurgia estetica, eterna mantenimento di una sorta di grottesca giovinezza che è orribile all'occhio, e allo stesso tempo anche la capacità di mortificarle, di umiliarle dietro un'apparente visione di libertà. Beh, proprio da questo ricomincerò lunedì, e proprio a questo dedicherò l'ultima delle mie puntate alle 10 di mattina. Donne e uomini comuni, vestiti di bianco e rosso. Bianco come il vestito da sposa che le 100 donne uccise dai loro ex compagni o mariti in questi primi mesi dell'anno hanno indossato o avrebbero voluto indossare nel giorno del loro matrimonio. Rosso come il sangue delle donne versato nel nome di un amore tradito. Tradito non solo dal loro uomo, ma anche da una società che non ha saputo ascoltare il loro grido di dolore. Tradito da media che compiono a loro volta un crimine, scrivendo che questi brutali omicidi sono proprio dovuti all'incapacità degli uomini di reggere la separazione. Una manifestazione di 4 ore organizzata dal Ministero per l'Istruzione davanti alla Camera per chiedere un intervento urgente contro quella che è diventata una piaga sociale nel nostro paese. Ogni 2 giorni e mezzo, infatti, una donna viene uccisa in un contesto familiare. Intanto però, proprio alla Camera il decreto legge sul femminicidio approvato lo scorso 8/00/24, non fraintendetemi, non sono un supporter della campagna in questo momento si sta facendo, anche con toni a volte molto apertamente legati alla demagogia politica sul corpo delle donne. Non è questo il mio intento. Io questa mattina vorrei, proprio per lasciare il testimone con dei punti di certezza, fare una cruda e attenta analisi, non inquinata da nessun punto di vista ideologico, su quello che è realmente nel nostro paese l'oltraggio quotidiano che gli uomini operano nei confronti del corpo delle donne. Io trattai questo argomento non molti giorni fa, l'ultimo degli ospiti, che era quello che avrebbe portato le date interessanti, ahimè, per una serie di circostanze usuali nella radio in diretta, ebbe pochissimo tempo, pochi istanti semplicemente per dire il suo nome. Presi l'impegno e ripreso l'argomento, e quindi questa mattina dedico appunto all'argomento che con lei avevo interrotto quel giorno tutta la puntata. Dottoressa Marina Bacciconi, buongiorno. Buongiorno. Noi ci siamo sentiti qualche giorno fa, come vede ho mantenuto la promessa, ma lo faccio con grande piacere perché mi serve per congedarmi da questo spazio, entrare in uno spazio in cui le donne saranno fondamentali, ma non semplicemente per fare i soliti ruffianeschi omaggi che fanno gli uomini quando si sentono di avere dei grossi pesi sulla coscienza, che tutti abbiamo, semplicemente perché sono interessato, appassionato dal punto di vista delle donne. Ricordo che la dottoressa Bacciconi è medico legale, docente universitario, responsabile dell'Osservatorio Nazionale Violenze Domestiche. Ieri lei ha presentato una ricerca proprio su questo argomento, sulla violenza in famiglia. Partiamo proprio da la più tristemente squallida delle violenze possibili, quella che avviene nascostamente, attutita da il pallido e tiepido velo dell'armonia familiare, della difesa della famiglia, del bel giardinetto in cui tutti si vogliono bene. Mi dà qualche dato sulla sua ricerca, soprattutto in che area l'hai operato? Soltanto nell'area del Veneto in cui l'ha presentata, o ci sono dei valori che hanno un valore, un punto di vista nazionale? No, io credo che ci siano dei valori che hanno anche un punto di vista nazionale, anche se i dati, per nostra scelta e per metodo, provengono dagli atti formali delle istituzioni, dei carabinieri, della polizia, dei pronti soccorso, dalla magistratura, eccetera. Per cui sono certi, ecco, non è che siano sparati a caso perché fa comodo in quel momento. Abbiamo cercato proprio di fare una cosa scientifica, ecco, questo è il concetto che volevo esprimere. È possibile, secondo lei, dottoressa, adesso, a parte la ricerca di cui parleremo, avere in mano dei dati scientificamente attendibili, perché anche la battaglia sul corpo delle donne non diventi semplicemente una delle tante battaglie meramente strumentali alle contrapposizioni politiche. La vulgata è che in realtà tutti gli osservatori sulla violenza femminile si basano sugli episodi accertati, quelli denunciati, quelli di cui parlano i giornali. Esiste ancora una parte grossa di questo iceberg che rimane nascosta. Sì, sono d'accordo con lei su due affermazioni. La prima è che esiste una larga parte di iceberg, e non solo di donne, tanto per capirsi, ma anche di maschi, che rimane nascosta. Ma d'altra parte io credo che non sia possibile continuare a dire questi sono dati certi, perché in realtà, cioè, possono esserlo meno, usiamoli per quello che valgono. Se mi permette, vorrei ciò da cui io voglio partire ogni volta è cercare di fare un discorso progettuale serio, non a spot, per cui cercare di individuare i vari passi che lo Stato, perché ognuno di noi è lo Stato, deve fare, deve mettere in atto, forse deve anche farsi aiutare dalle associazioni di volontariato, non è questo, però aiutare, non supportare, non sostituirsi. Ecco, rispetto a questo, io di quello che lei dice accolgo un'affermazione che ho fatto anche ieri, per cui non è neanche nuova. Io sono fiera di essere una donna, perché credo che le donne siano diverse, e solo se accettano la propria diversità e non pretendono di essere uguali, allora possono realmente riuscire a fare un pezzo di strada insieme con un uomo. Dottoressa, è la ragione della fascinazione che ho provato a esprimere in apertura di trasmissione. Ma difatti mi ha affascinato. Ecco, questo volevo dire. Però al di là di questo, è inutile. Io ho sentito anche prima attraverso voi, ma anche tutte queste donne uccise, eccetera. Ma non si possono fare leggi che non hanno, che rispondono a un'emergenza solo e poi lasciarle lì. Qui bisogna cominciare. Noi abbiamo, intanto ho finito di scrivere ieri prima dell'intervento in tribunale, un volume su 7 anni di rilevazione dati che vale per Friuli, Veneto e Lombardia orientale, quindi è più vasto il discorso. Allora, quando io mi trovo di fronte a più di 15.000 vittime dirette, cioè che le hanno prese, ok, dirette proprio, senza computare quelle che, calcolare quelle che sono andate dal magistrato separatamente in altre sedi che non siano istituzionali e così via, ma soprattutto senza neanche calcolare. Fermi un attimo, dottoressa. Mi fa un segno, Fabrizio Intonti mi preoccupa molto, è il tipico segno che fa, dice non arrivano telefonate. Bene, questo è un segnale. Se le persone, come sempre fanno normalmente, non chiamano immediatamente all'800 24 0024 su un problema che dovrebbe essere così all'attenzione di tutti, significa che ne è stata fatta una lettura esagerata che ha saturato la capacità di elaborare questo problema. Significa che la gente non è più può più di sentir parlare di femminicidio. Non c'è un rischio anche in questo tipo di comunicazione? Io ne voglio parlare perché voglio che lei avere dei numeri certi, voglio alzarmi da questa sedia a mezzogiorno e dire beh, ho capito qualcosa in più. Non è che non ne possiamo più di teatrini in piazza, di signore titolate giornaliste che vanno in giro in teatro, di fortunatissime rappresentazioni teatrali. Non è che la rappresentazione del femminicidio sta uccidendo la reale possibilità di mettere le mani nella parte dolorosa di questo problema? Certo, secondo me sì. Cioè, voglio dire, si emana una legge che non è neppure sul femminicidio, perché non è possibile, per Costituzione, tra le altre cose. È semplicemente un aggravante, se una è incinta, va bene, copi due invece che uno, mi pare. No, andiamo per punti, sennò la gente non capisce. Allora, facciamo così, guardi, dottoressa, mi dica esattamente dalla sua ricerca, che mi sembra che guarda il problema anche da un punto di vista un po' originale, guarda in mano gli autori dei delitti, che a forza di mostrare soltanto le vittime ci dimentichiamo che sono l'esito di qualcuno. Ecco, mi parli un po' degli uomini che compiono questi atti, proprio in termini certi. Delle donne che compiono questi atti, sì. Perché guardi che 1 su 3 delle vittime è femmina, cioè, no scusi, è maschio, e 1 su 3... degli autori è femmina, e non solo perché c'è la depressione postpartum, ma perché in realtà una certa gerarchia di valori è caduta per l'uno e per l'altro. Quindi se noi cambiamo il termine, non chiamiamo più femminicidio, chiamiamo delitti e soprusi in famiglia, ci rendiamo conto che in famiglia se le danno di santa ragione senza guardare il genere, sono molto più aperti delle persone che si arrabbiano in termini di disquisizione sul genere, sulla dichiarazione, sulla cosa. Sì, in famiglia sì, si menano sì. Tutti, non c'è uomo, non c'è donna, non c'è bambino. Non c'è bambino, non c'è adulto, non questo c'è è già vecchio, un dato. Certo. Ma al di là di questo io non posso inserire neanche questo titolo vicino a misure di sicurezza negli stadi. Cosa vuol dire? Cioè, sono due cose diverse, ma neppure nell'emergenza posso. Allora, quali sono i punti deboli di questo decreto, chiamato decreto antifemminicidio, che comunque è stato bombardato da emendamenti, quindi ci sono le donne naturalmente che rappresentano altre donne, io vorrei sapere chi dà alle donne il mandato di rappresentare altre donne, comunque detto questo. Sì, non è la sola a voler sapere questo, io non do mandato a nessuno di rappresentarmi, perché ci sono le elezioni, vado a votare, loro sono i miei rappresentanti, altri eleggono altri, però da loro, perché sono loro al mio Ma mi dica, secondo lei, i punti deboli, al di là, diciamo, di tutte le prese di posizione che ci fa sentire belli e buoni, perché io mi scrivo sulla maglietta basta femminicidio, vado per strada, mi tirano ghirlande di fiori, capito? Se scrivo la famiglia, chi li tira ghirlande di fiori, chi non prende soldi, cioè, tira ghirlande sì, di fiori. Ma se io mi scrivo sopra, la famiglia è un coacervo di violenza, di ipocrisia e di... Beh, voglio dire, cioè, ci sono volumi interi scritti su questo, quindi... Non direbbe nulla di nuovo. Però vediamo un punto che secondo lei stride con una realtà mirata alla soluzione del problema, di questo decreto. Allora, il punto è questo. Intanto tu non puoi pensare, mi dispiace, ma io sono convinta di questo, di affrontare l'emergenza con un'emergenza di un decreto legge. Primo. Questo è il primo punto che... senza neppure prevedere che questo rientri in una logica di progetto. E questo dall'idea di paraculata, esatto, per farsi bene. Sì, beh, ci sono le elezioni, tra non molto, adesso scusatemi, ma io sono anche molto chiara. D'altra parte... Sì, però siccome il problema esiste, non possiamo far finta che non esiste, qualcosa bisogna fare. Sono 50.000 le vittime, gente, non è possibile chiudere gli occhi. E 50.000 in, diciamo, 2-3 regioni, e quelle che emergono, non si può... E d'altra parte, nello stesso decreto si prevede 0 lire. No, scusatemi. Allora, ognuno a pioggia le dà ai vari centri, alle varie associazioni, alle varie robe, però questo Stato vuole farsi carico di un progetto suo a lungo, medio, lungo termine come finale, ma comunque che faccia dei passi. Quindi alla fine non si spendono soldi realmente per risolvere, no, il problema, ma per tutti i support che su questo problema fanno la loro ragione societaria, diciamo così. Ferma un attimo, sì. Luigi, buongiorno. Luigi. Senta, io sono stato vittima di un caso di aggressione da parte di una donna. Nel primo processo ho vinto io, la signora è stata condannata anche penalmente, nel processo d'appello la signora è stata condannata sempre penalmente, ma io civilmente ho dovuto pagare i danni per secondo giudice. È stato menato da una donna? Sì, io non vedente mi sono difeso, ho reagito, ho chiamato la polizia. Sono e perché, solo per capire, perché questa donna picchiava un non vedente per strada? Ma vabbè, una persona che si ha dei problemi, nel senso che nel condominio dove abitiamo ha aggredito diverse persone, nonostante i precedenti ha aggredito me, sono stato condannato io. Se poi mettiamo, se mi permetti, in questa legge del femminicidio, se una persona ti denuncia a livello... Poi scusi adesso Luigi, tanto parliamo molto francamente, sai, di questa materia, me la vivo addosso, quindi... Sì. Anche menare un cieco secondo me dovrebbe essere un aggravante rispetto, non lo so. Ma se lo fa una donna si vede che non è aggravante. No, dicevo l'ultima cosa, nella legge che hanno fatto io so che se c'è una denuncia anonima nei confronti di una persona sposata che gli dice che picchia la moglie e questo viene allontanato dalla famiglia, nonostante magari la moglie dice che non è vero, questa è proprio, perché è irreversibile, una volta fatta denuncia non si può tornare indietro, esatto. è uno dei punti più discussi del decreto, si dice sì, da un certo punto di vista impedisce il ripensamento e quindi punisce la vittima, dà ancora più titubanza nel denunciare, dico sì denuncio, poi non posso cambiare idea, è un deterrente. Rovini una famiglia anche se non è vero. Vabbè, famiglia è già rovinata quando accade questo, non è che ci dobbiamo porre questo problema, no, è che una persona dovrebbe avere il diritto di e riscrivere sempre il proprio convincimento, poter ogni giorno alzarsi e dire oggi la penso diversamente. Sergio, buongiorno. Sergio, spenga il campanello. Sì, buongiorno, sì, sono in linea, buongiorno. Sì. Niente, volevo spenga un po' volevo i telefoni dire... se può magari. Sì. Volevo dire questo. Io sono marchigiano, no? E sì, quando c'è stata quella tragedia di quella povera donna uccisa in Trentino, sì, sulla cronaca del Messaggero, sì, in una pagina a sinistra era dedicata a questa tragedia. A destra c'era una metà pagina dedicata ai carabinieri che erano intervenuti per salvare due gattini su segnalazione di centinaia di telefonate dei cittadini. Scherza, i gattini hanno un potere emotivo immenso. Allora, se i cittadini, magari due si picchiano, non telefonano ai carabinieri, ma telefonano per i gattini perché è più semplice, è un problema della cultura di questa società. Noi dobbiamo decidere cos'è più importante. Se è più importante questa cosa qui, tutti ci dobbiamo impegnare su questa cosa qui. Non me ne parli a me. Non ho niente da fare, salvo anche un gattino, sì, ma voglio dire, non è che posso, se sento due che urlano, non me ne frega no, niente. Non usciamo troppo dal problema. Sergio, sfonda porte aperte. Io più volte l'ho detto che usare forti supporti emotivi. Abbiamo avuto una campagna elettorale recente basata a cucciolotti tenuti in mano, capito? A gente che apparentemente gli faceva schifo il pelo degli animali, si vedeva un chilometro, però il cucciolotto faceva bene. E purtroppo dobbiamo scarnificare quella che è la realtà concreta dei fatti dalla lettura mediatica dei fatti. Questo sarà uno degli impegni che mi prenderò nel mio nuovo spazio di Cronache Meridiane. Melog. La realtà condivisa. Ilaria e Marta, una a Taranto, l'altra a Cagliari, uccise, vittime entrambe di quell'amore malato di uomini che non si rassegnano all'idea di separarsi. Ilaria Pagliarulo, 20 anni, è morta all'ospedale di Taranto dopo 7 giorni di agonia. Il suo convivente le aveva sparato 2 volte. La prima, seppur ferita ad un rene, Ilaria si era medicata da sola. Sapeva che farsi curare al pronto soccorso avrebbe messo nei guai il suo compagno. La seconda volta, colpita al torace, è corsa in ospedale in ambulanza. Lui intanto continuava a sparare, questa volta contro l'auto della suocera al seguito dell'ambulanza. Da Cagliari invece arriva la storia di Marta Deligia. Aveva già lasciato. Ecco le cose che non vorrei sentir dire. L'amore malato. Cosa vuol dire l'amore malato? Amore malato. Può essere associato al termine amore, il termine uccidere, massacrare. Sì, certo. Se smitizziamo la parola amore, considerandola nella sua accezione più romantica, ipocrita, l'amore è un fulmine, l'amore è qualcosa che ci prende, l'amore poi finisce. Quando l'amore finisce, sarebbe salutare pensare che possano nascere nuovi amori, non che l'amore si incancrenisca, si incistisca. Ma gli uomini non sanno più come governare, come gestire, commisurare il corpo delle donne, quindi sparano, uccidono, prendono a calci, insultano. Questo è il punto della situazione, secondo me. Ringrazio un ascoltatore anonimo che con un SMS mi ha suggerito la più fantastica definizione di quello che è stato il mio lavoro in questi ultimi 30 anni. Scrive questo signore: pianta la Nick, per fortuna ti stanno cacciando, addio patetico giullare degli stolti. Cavoli, bellissimo. D'ora in poi vorrò essere il patetico giullare degli stolti. Maria Rosa, buongiorno. Buongiorno. Allora, io vorrei dire, intanto non è amore malato, ma è possesso. Quello che succede è tra due persone che prima si volevano bene, perché amore è rispetto. No, l'amore non è rispetto. L'amore passionale fra un uomo e una donna è tutto meno che rispetto, scusi. Però è un altro argomento. Non condivido. E quando comunque ci si rispetta non c'è l'amore, è una cosa che ti viene voglia di mangiarla l'altra persona, figurati che rispetti. La vorresti su un piatto con sopra la salsa e mangiartela. Questa è la passione. Il resto poi è una serena. La passione è una cosa diversa. Comunque, vabbè, a parte questo. Ognuno ha la sua idea. Esatto. Comunque, a parte questo, quello che vorrei dire. Comunque, non c'entra niente l'amore con chi ammazza una persona o chi la mena. Questo è d'accordo. Ecco. Assolutamente sì. Quello che volevo dire, in un momento in cui ci sono talmente tanti stress a livello economico, a livello morale, a livello fiscale, a livello di tante cose. Il dire continuamente in televisione, per radio, tutto quanto, non il negare il femminicidio, ma andare nei minimi particolari, nelle perizie, nel dire come, perché, per quando, dove hanno trovato l'arma, che cosa. Chi ha la testa comunque piena di stress ed è fragile, vabbè, in un momento come questo, trova solo degli scusi. Sì, vabbè, dare la colpa. Questa trasmissione abbiamo fatto ieri con Cristina Cattaneo. Che esista una passione morbosa nel descrivere i particolari più perniciosi di un omicidio è vero, che a volte la necessità di cronaca dà elementi in mano alle persone che già hanno una tendenza al delinquere, potrebbe anche essere, ma che non è che sia la televisione che in questo momento istiga al femminicidio, tutt'altro, non mi sembra assolutamente questo, sta banalizzando il tema, che è un tema reale e concreto. Massimiliana. Ecco, buongiorno. Io invece vorrei focalizzare l'attenzione sulla trasmissione proprio in particolare di oggi, che ascolto dall'inizio, dove sento, ho sentito molti tristi esempi e anche molte critiche, soprattutto con la vostra ospite, per quanto riguarda la vostra ospite sì, di oggi. Vada al punto. Che secondo me appunto ha un linguaggio non alla portata di tutti, magari, nelle sfumature, ma soprattutto mi indispettisce un po' il fatto che ci siano molte critiche, per esempio sulla legge recentemente attuata. È lecito criticare, no? No, assolutamente, però mi è sempre stato insegnato che quando si critica qualcosa poi bisogna anche essere però propositivi, proporre delle alternative, e io delle alternative a questa legge, che può fare acqua sicuramente da tutte le parti, è criticabilissima, però non sento dei propositi. Allora, ci faccia terminare la trasmissione, scusi, sia gentile, di questo stiamo parlando adesso. Cominciamo a dire che è una legge che non ha accontentato nessuno, se non chi se n'è fatto, diciamo, la bandierina, quanto siamo buoni, stiamo pensando anche al femminicidio, entriamo adesso nella fattispecie. Ci ha tempo di finire, non facciamo i legislatori, ma diciamo le cose che secondo noi potrebbero in qualche maniera avere punti di perfettibilità. Alessandra. Buongiorno, intanto grazie, come una donna glielo dico veramente di cuore. La mia esperienza è questa, io sono figlia di un alcolizzato e mio padre quando ero piccola picchiava spesso mia madre, però il grande insegnamento di mia madre è sempre stato quello di difendersi, perché quando lui cominciava ad alzare troppo le mani gli dava un calcio ben assestato, dove una volta si diceva non batteva il sole e mio padre... Beh, ancora continua a non batterci il sole, le posso dare questa informazione. Ok, grazie, con questi nuovi costumi. E sì, il problema è stato che poi anni dopo mio padre, diciamo, aveva un po' ripreso il vizio, i vicini di casa chiamavano i carabinieri e praticamente quando venivano vedevano la situazione, magari c'era stato un po' di botte, sangue sparso eccetera, e dicevano prepara un bel caffè a tuo padre, si mettevano 10 minuti lì a chiacchierare con lui, a farlo calmare e se ne andavano tranquillamente come nulla fosse. Lei, Alessandra, ha espresso un caso tipico, da manuale proprio, esattamente come è stato finora trattato questo problema. Gli uomini alzavano le mani perché bevevano, perché erano rozzi, perché erano abbrutiti, prendono sempre un passo indietro rispetto alla capacità di elaborare la realtà delle donne. Gli uomini menavano le donne, hanno sempre menato le donne, l'hanno sempre menate, forte, hanno sopraffatte. Alcune donne, come sua madre, si tiravano sulle maniche, prendevano la padella o il mattarello e rispondevano alle botte, e diciamo era uno a uno. Quando comunque intervenivano le persone chiamate dai vicini e dalle urla, cercavano di salvare sempre l'immagine esteriore della famiglia. C'era sempre questa sorta di imperativo categorico, fate pace, risolvete il problema, poi ritornavano a battersi la volta dopo. Questo mi sembra un caso proprio da manuale. Dottor Gianfranco Gilardi, buongiorno. Buongiorno. Presidente del Tribunale di Verona, quante ne ha viste di situazioni del genere? Ma insomma ce ne sono diverse. Io adesso tra l'altro chiedo scusa, non ho potuto partecipare alla vostra trasmissione e quindi non ho potuto seguire il dibattito e gli interventi. Cominciamo da zero con lei, guardi, partiamo da questa telefonata. Partiamo da questa telefonata. Che questo è un fenomeno, questa è una canzone comune, ormai è un fenomeno crescente e per fortuna da un po' di tempo si sta allargando la sfera di osservazione, insomma il termine violenza domestica, violenza di genere, insomma riassume fenomeni disparati, ma sta crescendo la consapevolezza di aprire l'orizzonte. Una definizione che è contenuta in un volume dell'Osservatorio Nazionale sulla violenza domestica e che in parte è ripresa anche dal decreto legge numero 70, quello del 98 del 2013, la definisce violenza fisica, ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale che riguarda tanto soggetti che hanno avuto, si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all'interno del nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo. Quindi diciamo il bubbone vero è dentro la famiglia, non ci prendiamo non in capito. Giro. Il vero bubbone è nell'aggregazione certo, familiare. Questo è l'ufficio centrale sicuramente, ma vorrei dire che non diciamo, focalizzarlo è difficile impugnarla demagogicamente questa cosa, perché dietro diciamo la difesa dell'icona familiare si sono fatte carriere un'infinità di politici. Certo. Anche poi venivano trovati con allegre compagnie sui balconi di Via Veneto. Ma la prima esigenza è quella dell'informazione, un'informazione come dire che non parta da analisi precostituite, ma consideri come questi fenomeni possono avere tanti aspetti. Certo questo è un nucleo fondamentale, in qualche modo centrale, ma non è solo aspetto, insomma. Ecco, mi pare che questa preventiva esigenza di conoscenza e di inquadramento dei limiti del problema sia essenziale. Tra l'altro la domanda che mi pongo rispetto al decreto legge 98-2013, insomma, no? Rispetto al quale si possono fare riserve, critiche, denunciare lacune e contraddizioni, ma che rappresenta, aspira ad essere un provvedimento con maggior organicità di quanto non sia avvenuto in precedenza, una domanda da farsi è questa: quali sono le fonti da cui si è attinto per strutturare poi quell'intervento? Ecco, lei si è risposto a questa domanda. Questa è una questione, mi pare. Quali sono pare? Le fonti, secondo lei? Quali sono, secondo lei? No, appunto, io voglio dire, insomma, le analisi che sono state fatte, io non le conosco, non le conosciamo ancora le analisi che sono state fatte, sarà certamente tenuto conto di studi, sarà tenuto conto. E quale sarebbe il punto, lei, dalla sua esperienza proprio di presidente del Tribunale di Verona, che potrebbe suggerire modestamente, perché figurati, nessuno di noi ha l'ambizione di sostituirsi agli illustri legislatori. Quali sarebbero i punti? Se volesse dare un suggerimento, visto la signora poi ci diceva non dite nulla in costruttivo, qual è l'area su cui bisognerebbe maggiormente intervenire? Ma vede, io vorrei dire una cosa, qui proprio vorrei fare, è necessario ricogliere da semplificazione, vuol dire qui è necessario avere la consapevolezza che questo problema ormai ha assunto dimensione di un problema con dimensioni di carattere sociale, collettivo, e quindi quello che si deve dire è fare in modo che ci sia una cooperazione di tutte le istituzioni, a livello legislativo, con una comprensione del fenomeno il più ampia possibile, insomma non approssimativa, non puramente emergenziale, ma il più ampia possibile, tra l'altro. Poi a livello, come dire, anche di intervento della giurisdizione, insomma, l'efficacia dell'intervento è una delle condizioni fondamentali per poter, come dire, contrastare questi fenomeni. Tra l'altro proprio il decreto legge numero 98 del 2013 indica che quei reati debbono essere inseriti in un ordine prioritario di trattazione, e questo rimanda peraltro al problema non secondario che si deve creare le condizioni perché, come dire, la giurisdizione possa funzionare e possa trattare davvero. Anche perché, dottor Gilardi, in un decreto in cui c'è scritto che c'è l'arresto in flagranza della persona, ci vogliono operatori dell'ordine abbastanza specializzati del fenomeno per capire realmente e quale tipo di realtà sono andate a toccare in quel momento. Melog, la realtà condivisa. 800240024, parliamo in termini diffuso di violenza familiare, per questo sarebbe il vero tema. È chiaro che demagogicamente donne che parlano di violenza sulle donne funziona molto di più, ma la violenza sulle donne non può essere staccata da quello che è un contesto molto più complesso da gestire, quello della violenza all'interno della famiglia, all'interno della coppia, all'interno dell'aggregazione di esseri umani che stanno assieme e che oggi non possono più essere, diciamo, messi in delle gabbie così rigide come sempre nel passato, che c'era sopra una solenne suggello di benedizione e devono stare assieme per sempre. No, oggi possono anche scegliere di non stare più assieme e devono capire tutti, uomini, donne, adulti e saggi, che la piena libertà di amministrare il proprio sentimento, la propria passione, la propria voglia di stare assieme a una persona dovrebbe essere sacrosanto per tutti. Geraldine, buongiorno. Buongiorno, io volevo raccontarvi un po' la mia storia, un po' lunga, essendo stati 8 anni comunque. Sì, però deve sintetizzarla, le do un minuto massimo. Sì, il punto è che purtroppo bisognerebbe dare più potere più che altro ai carabinieri o comunque alle forze dell'ordine. Io dopo non auguro lo stato di polizia, io auguro uno stato di diritto. Sì, quello è vero, però dopo aver, io le ripeto, dopo essermi lasciata con questa persona, in modo ho dovuto scappare via di casa, ma che cambiare casa, parli della sua storia, trovare. Non faccio. Allora, io sono stata insieme con una persona più grande di me. Quanto più grande? 13 anni più grande di me. Nella regola, non c'è problema. Sì, comunque. Lui ha potuto negli anni, nel tempo, sapermi manipolare psicologicamente, nel senso allontanarmi da amici, farmi cambiare lavoro, però l'ha saputo fare in modo molto strategico, tra virgolette, sai. Vabbè, loro ti usano. Loro tutti tendono a monopolizzare un essere umano quando ce l'hanno. Infatti, lui, infatti, prima psicologicamente, nel senso che non gli andava bene, lei se l'è fatto fare. Abbiamo cominciato con le mani. Sì, ripeto, no? Geraldine, lei se l'è fatto fare. Cioè, però uno pensa all'amore, invece no, ormai è diventa una sottomissione. Cioè, sono arrivata a un punto di rassegnazione. Ormai ero rassegnata che dovevo stare con questa persona anche se non mi andava bene. E questi sono fatti suoi. Scusi Geraldi, questi sono fatti suoi, se l'è voluto e se l'è preso. Il punto critico quando cominciate a menarla, che è un'altra cosa. Quando comincia a quel punto. Tu chiami i carabinieri, vengono, comunque si fa una denuncia, quindi servono diverse denunce, loro comunque non possono fare nulla. Cioè, io a me mi sono state, quando poi sono andata via di casa, a me mi sono state squarciate le gomme, dato fuoco alle gomme, hanno cercato di entrare dentro casa con un piede di porco, ha cercato di entrare dalle serrande. E quindi? Io ho fatto delle denunce, i carabinieri non possono fare altro che verbalizzare tutto. Quindi lei, Geraldine, sta dicendo c'era bisogno di uno strumento. Ci stanno lavorando. Lo prendi lo prendi e lo metti almeno una sera al fresco, che capisce? E invece così abbiamo dovuto aspettare un provvedimento dal giudice, che sono passati mesi alla fine. Allora, ferma lì, dottoressa Marina Bacciconi, l'ho tenuta in ascolto così si rende conto anche delle reazioni del pubblico. Questa ultima telefonata è significativa di un'altra situazione, di persona che comunque ha fatto il passo, ha deciso di rendere pubblico il proprio quotidiano iter doloroso, però dice manca qualcosa, per cui alla fine questa persona me la trovavo sempre addosso comunque. Questo è il punto su cui ha fatto muovere l'idea che forse qualcosa bisogna fare di concreto? Certo che sì, io non so se il dottor Girardi sia ancora in linea. No, adesso non più. Ecco, allora rispondo per lui, nel senso che lui era coordinato dall'osservatorio, è responsabile di un gruppo di studio intergiurisdizionale, cioè fatto da più magistrati di più giurisdizioni, per rendere molto più celere e veloce la risposta della giustizia. Io non sono per lo Stato di Polizia, mi scusi, ma lei mi ha chiesto dei numeri, ora glieli do. E con questo voglio anche rispondere su questa legge. Dal 2006 al 2012, in tutte le province del Veneto, in tutte le province della Lombardia orientale e nella provincia di Trieste, le vittime dirette sono 7.280 femmine, 3.483 maschi. Rispetto agli autori, adesso mi faccio arrivare alla pagina perché ce l'ho davanti e sì, quindi voglio proprio darle numeri, i numeri, punto a capo. Rispetto agli autori, sono sempre nello stesso territorio, sono 4.508 maschi, 1.430 femmine. Allora, se su questi dati si fonda una risposta tipo il decreto citato dal dottor Girardi, può rispondere a un'emergenza, d'accordo? Un'emergenza, qual è l'uccisione? Ma non risolve il problema. Ma non solo non lo risolve, ma neppure lo affronta. Anche perché è noto, voglio dire, io le cito i dati del Ministero dell'Interno, quindi non dati così, che ha valutato tra il 1995 e il 2009, questo è l'ultimo, una crescita significativa delle violenze, degli omicidi per passione, per famiglia. Allora, dottoressa Bacciconi, siccome siamo arrivati alla fine, le do un minuto ancora. Dica in un minuto esattamente quale, se lei avesse disponibilità e pleni potenzialità di decidere, quale sarebbe l'iter corretto per risolvere il problema. L'iter corretto sarebbe intervenire in via preventiva nelle scuole, sull'educazione, cosa che stiamo facendo. Intervenire, usare quella parte di prevenzione anche nei confronti degli autori, perché la pena deve essere scontata in un certo modo, comminata in un certo modo ed esemplare, rapida ed esemplare, cioè in modo tale che sia da esempio che si tratta di un reato. La terza è che è necessario avere tutte le istituzioni che non si nascondono dietro vari timbri, timbretti, richieste e così via, ma pur nel rispetto delle persone, pur nella privacy, eccetera, eccetera, eccetera, garantendo con un unico sistema di criptaggio il loro anonimato, però collaborano tutte per capire se quello che si fa funziona. Come collaboratore di giustizia, mi sembra che per chi ci dice fate soltanto critiche, non portate nulla di costruttivo, l'abbiamo contraddetto. Abbiamo richiamato la dottoressa Bacciconi, che ci ha dato comunque un quadro completo, un quadro scevro di ogni inquinamento ideologico, propagandistico o di mera opportunità politica. Il problema c'è, il problema è in quell'agglomerato sociale che ancora chiamiamo famiglia, che probabilmente non ha più così forte ragione di essere così costituita. Beh, vi lascio, è l'ultimo. L'ultima volta che mi sentite a quest'ora, da lunedì sarò a 12:30. Chi mi ama mi segua e gli altri godano lo stesso. A lunedì.